riserva, va bene? Va bene, Antonio, ciao, qua io non c'è problema, tutto ok. Buona cena, buon tutto, apra bene. Dove? Vai un manico e un bico, e a dove arrivi, dove va? cielo, grappa di rocelo. E aia, così è, così è. Sulla carcassa. Ma quando è qua? Quando la sua ricordo, non so più. Ma cosa c'hai? Problemi di massa? Problemi di massa io? Non credo proprio. Non ho passato la radio. Ho spostato la radio per pulire e siccome dietro non vedo c'è qualche capo sta toccando da qualche parte. Cambio allora. pochino poi già stava andando tutto bene. Sì, ma io non l'ho fatto lunga, però sono spostata per pulire, capito? E sicuramente dietro che io non vedo c'è qualcosa che sta toccando da qualche parte, perché io me l'ho segnato, sta scaricando qua, c'è qualcosa, ma non lo vedo, non so che cosa toccare dietro. Non so, mi zicchia. Una radio. Ah, e allora già va bene. Buonanotte. Eppure presto lo vedi, se ci puoi andare ci fai, se non ci puoi andare non ci fai, però un camuffo, se non si è astuto non riesce a capirlo, ti butti. Chiaro, io bisogna essere giusto come poco fa, bisogna stare con gli occhi aperti ogni giorno. Cazzo, come mai te la mettono sempre nel di dietro? Avanti. Sera, vorrei un controllo. Ma sera, sera, che abbiamo l'onore di parlare, qua è il doppio room, in compagnia di Bombolo, dai. Vieni avanti, ti do il controllo, l'illumination. Oggi è qui Fantomas, comunque. Ma Fantomas, la che zona stiamo durando, andatevi benissimo, dai. Che cosa state parlando? Ragazzi, qua c'è Santiago 9 e Radio 5, la radio è buona. Qua 9 e 30. Portate comunque. Da sicuro. E vai. Con un Alan 38. Fatto una stata di vecchio. Ciao Gianni, ma la sala Antonio. Sì, fatto una stata di vecchio. Ciao, ciao, bello bene. Amico mio Roberto, sono Luca, se ti ricordi anni fa. Mi ricordo poco. Roberto Bandito, tuo cugino, no? Certo, Roberto Bandito. Tuo fratello era pigiamino. Sì. Vedi, non mi sbaglio. Luca, dai, vabbè, facciamo qualche anno, vai. Qualche 10 anni, posso anche qualcosa in più. Vai Gianni. Capa, ciao Fan, ciao Mascuca, ben risentito, dai. Doppio room da questa parte. Questa stazione Bombolo, Radio Bombolo, Kappa. Già, c'è tanti anni fatto, tanti anni, è mancato tanti anni, forse è mancato 10 anni, più o meno. Io adesso c'era prima, molto prima di me. Ma c'è che c'era l'antenna sul petto? Certo che ce l'ho sempre. Andare, va. Olio, non sei più sentito? Già entra ogni tanto. È immortale. E Antonio non entra più. Morto Falcone. No, non è vivo, solo che non abita più là. Ho fatto residenza e non c'è più niente. La solita musichetta. Infatti. Se ti interessa c'ho le mie P3. Lo sto prendendo. P3? Ah, chi dì? Di Falco. Oh, yeah, yeah. Oh, caro. Oh, il fantoma. Tu il gioco della calzetta. Ma senti il pelo, Non c'è la sassa di fantoma. No, sto lavorando a Anzio. Ecco, infatti si è mancato. Ecco perché lo stai modulando. Ho capito. Beh, bisogna partire fuori, se non c'è qua bisogna partire. Buonanotte. Tu ricreggia, non c'è niente, è stato bene. Ma c'è tanti anni fuori, no? No, oh, solo 3. Ah, poca roba, Roberto c'è tanti anni comunque. Sì. Roberto è a Reggio Emilia, mi sembra, no? A Coso, aspetta, a Modena. A Modena, è vero, a Modena. Cosa fai, Carlo? Per fabbrica. Vabbè. Qua è bello solo passare le fine, poi a lavorare poco vinne. E fighe? Diciamo di sì. È solo che adesso il tempo è un po' così. Brutto. Ma non mai il mare, mi sembra che è la passione della pesca, sono pescare già un po'. Lo vedo in cartolina. Appaga. Vabbè. Il prossimo anno ce le prendo in agosto. Tu, le prendi. Gappa la gappa. Quindi entrevi l'amico Fantomas. Ia, c'è l'apparato a casa e... Ma sei con la famiglia là oppure... Solo tu. Mia. No, dico, sì, con la famiglia là dove lavori in continente. Ma lì no. Ah, cappagà. Vabbè. Ogni tanto, dai, per vedere i tuoi. Va bene. insomma, se non sono discreto. Firenze. Firenze, sì. E allora ti facciamo trasferire su Isu. Magari. Che bisogna conoscere, perché io ho un cugino che pensa di trasferirmi in Firenze. Magari, da su sono anche la guardia azzurra, la gente di polizia. KK. Quindi fai finanziera? Sì, no. Ma sei guardia zufila? Sono la polizia giudiziaria. Lo so, perché ce l'abbiamo anche noi guardia zufila. Fate il giuramento in comune, dovete studiare le leggi, eccetera, eccetera. Sono tutto qua. Ce l'abbiamo anche noi al CISO, ci abbiamo le guardie zufila. Ma non so come stai qua, sono molto interessato. Abbiamo passato il segnale. Io. Qua non mi risulta. Sono l'uno, quanto ma. Ah, sono molto diverse. Che cosa c'è di diverso? Lampana. Ho come incisione. Voi siete pagati. No, qua sono volontari. Sono volontari, capito? Le guardie zuffe sono volontari. No, sono pagati. Ma qua non hanno neanche una... Noi siamo volontari della polizia. No, ce l'hanno la divisa, come non ce l'hanno? C'hanno la macchina verde con la freccia, c'hanno la divisa, c'ho tutto. No, già ce l'hanno, come se non ce l'hanno. La divisa è tipo quella dei baraccini, verde. Eh sì, ma io già li vedo perché noi a Ciso abbiamo diversi volontari che sono delle guardie zuffe, quindi li conosco, so come sono. Ma comunque non sono pagati, quello sì. Hanno fatto il giuramento davanti al sindaco. E poi diciamo che studiano le leggi, io non ho studiato le leggi. Certo. Tu sei andato in corrente per fare la guardia zuffa. Ma lo fai come mestiere oppure come, diciamo, passatempo? Poi è passatempo. Ah, capito. Vabbè, comunque. Allora, ce ne sono addirittura due tipologie di... cosa si, che gruppo partiti, Lampana, cosa si? Lampana? Ecco, Lampana c'è anche qua a Sassi. Quindi, è la stessa cosa, non è diverso. Adesso mi sa che devono anche armare. Sì, ora poi noi anche ci puoi trovare, non so se tu sei iscritto a Facebook. Sì. E lì, guarda i doppi di Nettuno. Così vado a vedere. Ma comunque gli hanno dato la macchina, adesso hanno la macchina verde. Con la scritta delle zuffile, lampeggianti, eccetera eccetera. Anche noi, poi noi siamo in tutta Italia, siamo l'unici che facciamo viabilità. Anche a Porto Torre se lo fanno. Porto Torre. Porto Torre si fanno viabilità da guardie zuffile, li ho visti io personalmente. Bello stare con la palestra di servizio. Pagato. Lo fanno, ci sono addirittura le guardie zuffile che vi chiamano i nonni, i vigili nonni, una cosa del genere, che sono quelli in pensione, le guardie zuffile in pensione, che stanno ai passaggi pedonali per far attraversare i bambini, per questa roba qua. Luca, ricordi che se no sono polizia. No, non faccio un pronto qui, no. Sono andato a passare, c'era lui, sto qua, perché mi ricordavo che c'era questo affatto, ma stanno di qua. Infatti è lui. Ma mi sta ascoltando, tranquillo già. Me lo ricordo anch'io, Fantio, ma se no, me lo ricordo anch'io. Lui magari di me non si ricorderà, ma io me lo ricordo. Non si ricorda di me neanche. Guarda, sono passato troppi anni. C'è i capelli lunghi, sempre lunghi c'hai i capelli. No, non sono lunghi come una volta. Ma vabbè, c'è un tipo un caschetto, dai. Oddio, ce l'ho ancora, diciamo. No, ma sì, dai, non ce la sbagliare. Ma scusa, non è una grande. Una lem. portatile, poi è collegata con la LEM. Ah, ecco, mamma mia. È radio, ne ha mai giocato? Sua, è sua. È macchina che porta. Poi vabbè, l'organizzazione magari ti fa. Sono più soldi, non lo so. Quanti siete voi? Ho 21. È qui Lampana, sta per la nascita, c'è poche persone. Qui è nata a Campo Dottore, adesso c'è un po' di luce, facciamo un gruppo più vasto, addirittura c'è gente che ci ha preso il porto d'arma. Sono pronte ad avere l'arma. Cioè, se una ragazza è andata a fare il tiro e ha fatto 75 su 70. Ho tirato le 100 e mi aveva preso la pistola in mano. Ci sono persone proprio risopportate, sono nascosti. Sai che sono rimasti tutti a bocca aperta quella tirata, tiro a sé. Per lui. Una donna. Io per lei allora. Immagina. No, noi siamo, diciamo molto con loro, fanno anche servizi tipo manifestazioni, tutte queste cose qua. C'erano anche ieri che c'era il triathlon a Porto Dottore, se c'erano anche loro. E noi facciamo quello. Quindi non siete gli unici. No, noi infatti collaboriamo anche con i vigili, siamo anche dentro le loro macchine, capito? Sono le processioni dietro. Vabbè. Non facciamo carabinieri, polizia, vigili, servizio. Ma siete sempre dei volontari, dai. In parte sì, dipende dal comune, come ti dà l'autorizzazione. Infatti. Voi siete presi come volontari, poi siete pagati lo stesso. Minimo, dai. Vabbè. No, io so che da noi non prendono solo le proposte, che sia così anche qua. Ma so che sono volontari, che lo fanno come volontari. Controllano i microchip dei cani, tutte queste cose qua. Tutto quello che riguarda i cani e la visitazione. E deve essere bello comunque fare la guardia azzurra. Ci si diverte, dai. Sono Ronnie, secondo chi trovi, mamma mia. Lo so, anche quello. Secondo chi trovi, per dire, mi stavano raccontando quelli di Sassari che sono andati dove buttavano della roba, che stavano facendo un mondo in ferie, hanno beccato questi che buttando la roba, non gli voleva rilasciare il nome, tutto quanto. Stava facendo prepotente, loro erano in due. Stava facendo prepotente e alla fine hanno chiamato i carabinieri. Sì, era quella logica. Che voi non potete intervenire, non potete neanche arrestare, niente. Sono fatto fermare, fare il fermo e mettergli la multa. Paga. Ma è così, sia che sia. Ripeto. Vediamo. Cioè, loro se non possono fare, dobbiamo chiamare i carabinieri. Ah, non mi ricordo quella cosa lì. Un giorno ti telefono e ti dico una cosa. No, quando ci troviamo, dai, almeno ricordamelo. Ma in merito ai guardaluffi. Pagava. Vai, no, io non voglio fare polemiche. Però già te lo dico di persona, dai. Paga. E controllano anche la gente, magari hanno buttato la montezza, la foglia oraria, tutte queste cose qua. Adesso non mi ricordo, 2 anni fa in Bari, c'era una tipa che aveva dietro casa mia, c'era il pitbull, no? L'aveva portato lì in piazza, l'aveva trovata senza paletta, senza musarola, e l'ho messo No, ma di invece che faccio di multa. E quale zuffi? Ti controllano anche il mio chip del cane, tu ce l'hai, tu ce l'hai. No, non ce l'ha, tutti i vaccini tra i microchip. Se ti ferma non c'è una pistola per controllare. Non so. Già, se appena vengono questi soldi, non è uguale. Ora glielo metto. Quindi non è denunciato, c'era. No, negativo. Perché mi hanno detto di andare lì a coso, al pattuglio, ogni primo del mese mi impari, lo mettono. Una volta al mese, ogni primo del mese di lunedì, vediamo un po', questo mese, c'è l'altro mese, non capita. Ottobre, aspetta, vediamo un po'. Dovrebbe essere qua. Allora. Il 4. Quell'altro che mia madre sa, o poi mia zia, non so, no, un incidente, lui con una sua carta, non so, con questo sale o quest'acqua santa, non so cos'è, boh, mi curavo, riusciva, insomma, mi faceva del bene. Adesso prendi l'esempio di, come si chiama, la figlia, una, come si chiama, ma lei vendeva sale, poi sale, sale la cucina, Vanna Marchi e la figlia, vediamo loro l'esempio. Sì, quello lì hanno portato milioni e milioni, lui si mantiene la gara bomba di zeri, il fidanzato è scappato, parla della figlia, quello negro. Vabbè, dico, per un esempio di loro, cosa facevano loro, capito? Ma chi ti fa la io, fatto. Chi due? Mi subo per scusare dell'altro giorno che ti ho sentito lui, devo risalto. Questi qua, praticamente c'è questo qua, questo negozio di elettricità che sta cercando due commessi, si presentano marito e moglie. Entrano nell'ufficio e fa con chi ho a che fare, ha detto il principale, il tipo. Detto, noi siamo. Siamo la famiglia Lampa, io mi chiamo Lampadario e lei si chiama Lampadina. Certo, ma dove vanno a pensare? Sempre ce ne intende una. Lampadari? Perché Lampadina? Vabbè, è un casino, ogni tanto se ne inventano uno. Aspetta. È così, caro Gianni, ogni tanto se ne inventano uno. E non ci vuoi fare. Affadinare, sarà visto, vedi? Affadinare, no, lui se la per farci di tutto non può affadinare. Praticamente dovevano fare l'amore con lui, no, per dargli il lavoro, e qui il lavoro non esisteva. Cioè, era un... Ecco che la voleva alla fine, poi diceva che la voleva porca, più put. Di quella lì per dire si spogliava e cose, diceva no la voglio più porca, più capace, dimmi qualche parola provocante. Cos'è? Vabbè, io ti sto dicendo di Vanna Marchi, ti ho fatto tanti soldi, tanti, ma sei ancora in galera? Penso di sì. Cosa? L'avrei già scagionata. Ma ci farà la galera, però noi ci trova un pacco di soldi. E allora? Poi Guido Ronito se ne è fuggito, magari si sta ricadendo tutto quanto è. Ma c'è niente, no. Comunque eravamo convincenti, ti prendeva a voci. Era proprio di quelle convincenti, hanno intervistato delle signore quando allora c'era, non so se c'era la notizia, l'aveva intervistata, mi ha detto che praticamente c'era il marito questo qua con il tanco, aveva provato tutte, l'unica cosa che poteva provare era Vanna Marchi, che aveva scritto lì, l'aveva convinta, non so se gli ha spillato 7 milioni a volta, una cosa 7 mila euro a volta. Però c'è anche da dire una cosa, ma pure questa gente a credere una cretina del genere, che Vanna Marchi ha sbagliato perché ha sbagliato, cioè, quello senza ombra di dubbio, però anche loro non è che abbiano molto cervello, eh. Tu, quando tu hai una persona a te cara, che ha un male del genere, che le tentate tutte, se vedi uno spiraglio lo tenti, credi anche in qualcosa che non è vero, perché pur di salvare la persona dovresti fare qualunque cosa, e quindi questa gente qui si approfitta di questa gente che sta male. Ma si approfitta dei più deboli, perché c'è una persona sana che ha un caro anche, cioè c'è una persona che diciamo sì, che ha un caro che sta così male, eccetera, eccetera, però è una persona che ha carattere, a quelle cose non ci crede manco per sogno, vada come vada. Manco io ci credo, io non credo né a chissà di lucide, per queste cose che per me sono stupidaggi. Poi da noi veniva, questo qui visto con i miei occhi, veniva questo qua a scaricare la Coca-Cola ed era tutto pieno di porri in faccia, era un bel ragazzo con gli occhi chiari, biondo, però ci aveva questi porri in faccia che lo deturbava. Questo ha provato di tutto a farsi riseccare, li ricrescevano sempre. Questo mio collega mi ha detto, ascolta, ti porto io e te li faccio togliere. E così ha fatto, l'ha regato a casa sua, la mamma ha tirato un pelo dal capo, ha fatto finta di fare un nodo, gli ha fatto una preghiera, il giorno dopo era tutti sì, cazzo, quando è venuto da noi a scaricare l'altra volta non ne aveva più. Beh, quello lì potrebbe essere un caso, potrebbe essere, però cioè, però una cretina del genere che va in televisione lì, la colpa ce l'ha anche la televisione, secondo me, dove andava a fare il programma, se metteva una cretina del genere a fare prediche, appunto, cioè a fare queste cose qua, no, non esiste per niente. Bisogna fare anche quelli di là per dare lo spazio per il programma, no. Se ne ha fuggito di lì, quando c'è qualcuno qua tra chi avanti? Sempre io, Fantoma. Se ti avevo chiamato non rispondi di più. Mi si è attaccato il PL. Vabbè, sono un po' diciamo sfidato, no? È molto sfidato. Vabbè, quando è del tempo, lo sai, è così. Comunque, già, è tutto un casino, fa rischio, ecco, e poi va a finire che li beccano, non sono scemi, no? Cioè non sono scemi le persone che fanno queste cose, e poi sanno cosa vanno incontro, no? Un lavoro, via. Ma però ti fanno arrestato, non già. No, l'hanno scontata, si c'è notizia, praticamente gli ho detto che era l'unica volta che lo faceva. E gli ho detto, ma cosa stai dicendo? Che abbiamo avuto parecchie segnalazioni. Questi qui sono tutti i fogli delle segnalazioni che abbiamo avuto. Io te l'ho ammazzonato. Ma che ha fatto? Gli hanno detto, ma allora questa ditta esiste, una ditta russa, vero? Che prende queste promotte. E gli ho detto, no, non esiste. Lasciatemi in pace, non esiste, gli ha detto. Figurati, via. Vabbè, ci provo comunque, vedi. Può intervenire lì, può intervenire anche in carabinieri, la polizia, se vedono una cosa del genere, vanno e l'arrestano subito. Vabbè, ti credo, mica si possono fare. Vabbè, diciamo che questo qua è stato magari più intelligente a farlo con le persone grandi. E come stanno con le ragazzine nel peggio? Qui si l'aveva tagliato il pubblico come ti va di in cose in Africa. Ma in Africa chi ruba negli italiani rimane in pubblico, tutti applaudiscono. Su questo che me l'ha raccontato un amico mio che è andato a lavorare e non ne sa la storia, cosa. E mi ha detto che una volta ha visto un bel incidente in questa piazza. Che al centro c'era un palco, pensavo fosse qualche spettacolo, e invece c'era questo qui, e hanno messo le mani sopra questo cavolo con una, come si chiamano, quei coltelli, quelle sciabole un po' grandi, la scimmiata, e hanno tagliato le mani. Allora, quelli fanno la violenza, quello che è a bicchierino di tagliare. Mi hanno tagliato le mani perché aveva rubato davanti a tutti applaudendo. Cazzo, c'è una cosa così manca, ma non l'avevo mai vista. No, lì non perdonano, no. Tutti gli italiani rimane cruzando a cosa fiocchi le scelte. Lì c'è di pensare, no, non una volta, no, 6 volte, insomma di fare le cose. Già veniva voluta una passata pure in occhi, un po' più di niente, allora manco che era passato le macchine. Che ruba, ma mai tagliato. C'è che me la raccolta. Tanto mi tu ce lo conosci, Vincenzo, quella persona che conosciamo, Vincenzo. Anche a pagare, ma lì non è. Sono un altro paese, lì se la fai la paghi, c'è poco da fare. E la gente ti applaudisce, che sono proprio sarichi. In Arabia Saudita, come dicevo. Ah, invece che solita c'è esaurita la lupa. Che è esaurita? Arabia Saudita. Si ha fatto nel giardino, abbiamo fatto ricercare il legno, no? Abbiamo detto, questo perché hai fatto le ricerche, per aprire la bellezza. Per aprire la bellezza. E arriga, dimmi, non avevi dove andare. Dove andare in Corsica, che avevano trovato un lavoro. E si sono telefonati, ho telefonato da dove faccio servizio ambulanza io. Ho telefonato e ho detto, Tomi, a me fatti l'asciugamano e la patente. L'asciugamano e la patente? A me fatti lo asciugamano e la patente. La patente perché doveva andare in macchina. Avvicinate qua. Tutti ridete. Se no quando lo fanno incazzare, che mi hanno detto che non fanno colore di tubo, cazzo quanto si era incazzata. Mami. Allora, lo fanno a peffe. Non è molto buono su Facebook. Si chiama questo qua? Vincenzo. Era con te lì a Cisom. No, ho capito, ma capelli. Ma è tolto che mi ingamma. Prendi un fuoco lo chiamane. E comunque... guardi, volevo dire. Questa gente qua, tornando al discorso di prima, se trova la sua, si la manda, poi si la manda, non la sua in mano. No, così si va. Ma c'era anche Fantomas, avanti! Io non ho capito, cosa hai detto? Sale, uno? Cosa? Che hai detto? Si assume? Si quadri? Uno come quella lì, come quello di, diciamo, pide alle piazzine, così si rilassa. Quando ci vede Vincenzo? No, a parte questo. No, Vincenzo che ha perso la gamba, a parte tutto, non è. Solo che sbaglia a parlare. Zombè, gli fa vedere magari i sassarici. Traducono le parole di sassarici per dire mi dia un carlavaccio. E va bene con noi, qui ci vedeva l'asciugamano, il asciugamano, il tonno, non il tonno. Poi non ci dico, non c'è al mar, non c'è ai mar. Un tonno. La torre. Vabbè, la torre è la sua di Zerriago. Oppure dammi la birra dreghe. La birra dreghe, vai quando, si riprendi. Dammi che il tuo caga. Questa sera ti pensa che hai perso il tutto, così è. Ho finito di una cosa almeno. 10, cosa hai fatto? Cosa c'è? Vedo che è arrivato più forte, è arrivato quest'ultimo passaggio. Non ho attaccato qualche cosa. Penso ho sistemato qualcosa. Hai migliorato di brutto qua, Ancora la mia REM. Cosa ti è rimasto? Anche qualche stufetto. Ho solo i portati e l'Intec. L'Intec? Questo è un Nalan. Cosa c'è? L'FM500S? Questo l'Intec, cosa c'è? L'FM500? No, non è quello, è l'altro. Quello mi costa è 43. Ah, cappa. Ecco, ancora ce li hai. Il vecchio Tokai 5024. Ecco, sono lì, famoso. Quella con la gomma attorno blu metallizzata. Amore. E l'ho avuto anche io. Nuovo, l'ho avuto, l'ho venduto. Aperto archeologico. È un apparato dove si deve, lo si sentono esplosso da nulla. Vero. È sordo. Un apparecchio sordo senza correre, senza. Si sembra una telefonata quando. Sembra come quando si è in FM con lo scolci. È vero. L'avevo è era nuovo, nemmeno un grafico, era proprio perfetto. E l'ho dato alla parte mia, diabolica, perché c'è l'avevo, lui me l'ha detto messo male, allora mi ha detto, dammi quello lì che è per la collezione, che lo compro io, me l'ho venduto a lui. L'ha preso, si è venuto a casa, mi stava appena, si era comprato tre in una busta. Mi sono attaccato alla stazione. Anima. E questo, no, dai, qui non rimani senza, non ti preoccupare, va, top, me lo bido, me lo bido un asso, e dirò là, preso la stessa, e tocca io un altro che sono così come che paracchino era, non tutti presi dai miei, chiappa, ma quindi a te non sta modulando, ecco, la Fantomas, con la letta, l'embriciai, ricordo. Che forma c'è, tipo la mano? Sì, ha 6 o a 5 o a 6 elementi e ha 4 radiali. E sarà la tubolema, superlema forse. Sì, superlema. Eccolo lì, è buono amico mio, l'ha preso a usare, vero? Vero, ha molti anni, l'avevo comprata nel 91 mi sembra, 90-91. Ma fa integra, rimasta, vero? Perfettamente integra. Chiappa, già sono buone, già, sono buone anche quelle. Tu vuoi diventare là? Aspetta, no, sono la lema qui, sono una buona mano a fare delle buone antenne. Ma le migliori sono le lema, sì, ma quello che conoscevo io. Sirio, quale scura? Chiappa, comunque per avere 20 anni ed è integra, è un bene. Vabbè, sì, magari integra ancora, ma sarà già mezzo... come si dice, un po' fragile. Per dopo 20 anni, però se ha resistito troppo il tempo, vuol dire che l'antenna è abbastanza buona. Poi dipende anche dalla zona dove ti trovi, se è molto ritirata, se diciamo un po' coperta, dipende da tante cose, dai come è stata sistemata l'antenna. Sto toccando, Ma ci sei? Ci sono, detto che mi sto toccando, ossia me ne scenda. Chiappa, volevo sapere da che zona modulare. Casa di Vecchio, parte Santa Maria. Chiappa, Non so bene. No. Mai vista l'antenna lì, in quella zona, forse non ci ho mai fatto caso. E se entri la vedi? Ma da dove si vede la tua antenna? La via principale. Ma chiappa, non ci ho mai fatto caso, la verità, non so dove sia. Allora, si integra, è già una cosa buona. Che è molto alta, perché è in zona ombra. Chiappa, mi sembra, non mi ricordo male, che sia o 9 metri, non me lo ricordo male, non me lo ricordo quanto è, mi sembra più alta della mano qua. Sì. Vagabbo. Avanti già. Più alto è la manto vero. Va. E allora è flessibile, non è flessibile. Chiappa è enorme. Sì, vabbè. Cazzo, perché è buono. Quel momento è uno delle migliori antenne della 26, là. Tra le migliori. Poi secondo me c'è la lema che è molto buona. Ripeto, la lema ha sempre fatto delle buone antenne, non è scarsa come casa, è abbastanza all'avanguardia. Se è campata tutti questi anni vuol dire che qualcosa c'è. E anche la sigla esiste ancora, perché le antenne sigla sono più di 1800, per cui sono più di sigla. Lo so. Adesso stiamo facendo la turba come, ma la 1 la sto più facendo. Okay. Da quanto ho capito, nella 1 o nella 5? No, farò la turbo e basta. Ma, poi per mettere la turbo preferisco prendere qualche cosettina in più, metto la Superlerno. Perché di più costa? Costa un pochettino di più la Superlerno. Non lo so, qua sassa e da voi non lo so dopo ora come sta. Che faccia bada su internet? Ma qua la voleva usare a 120. Ho pagata 100.000 lire all'incirca. Ma adesso costa il doppio. Con l'euro. E loro non è che dovevano mettere 100 euro, dovevano mettere 50 euro per essere giusto. Proprio così. Ci hanno raddoppiato tutto. E poi sono l'orfi. Sì. Io l'avevo finito mezzo mondo. Vero, meno male che non hanno duplicato Berlusconi. Ah, dai. Ma sono dov'è? Cosa ti stavo dicendo? Che ci ha guadagnato solo chi vende le industrie e diciamo i commercianti. Questo tiro lì è da ripesso. Ma quando c'è quest'euro molta gente si sta lamentando che non ce la fa finire al mese. È vero. Invece con la lira metterti anche mezzo milione da parte. Ma che differenza. Ma molto cara, anzi meno cara. Ah, io sono ritornato alla lira. Sarei tornato alla lira. Cari. Purtroppo non si può più tornare indietro, una volta presa quella cosa lì è difficile tornare indietro. Avanti, in figlio pure. E comunque lo trovo sbagliato ugualmente perché era il cittadino che doveva decidere tramite votazione se cambiare o no e valutare tanto. Invece è stato fatto perché sennò con tutto il deficit che avevamo la Monsignor Cecilia venite giù e come nel terzo mondo. Ma infatti adesso dove stiamo andando su secondo te? Noi stiamo tornando indietro invece che andare avanti. E con l'euro ci ha salvato solamente, momentaneamente, adesso scendiamo ancora di più. Casino, eh. È un casino. Luca. Che bagnava? E io. Cosa diciamo? Gaffa. Purtroppo non sono state controllate le cose già. Ci hanno fregato perché non sono state controllate le cose. Se si controllavano le cose, cioè hanno lasciato. Come si può dire, hanno lasciato Gucci come se bene, hanno lasciato via libera i commercianti ne hanno approfittato e adesso è un casino, non sono stati controllati i prezzi. Poi no, non ce la prendiamo con l'euro in se stesso, ce la prendiamo contro questi imbecilli che hanno non so capo tutti i prezzi. Quello che era prima 50 lire, è un euro. Infatti, cioè, è del doppio. Perché non lasciate più sciolta ai commercianti? Invece se fossero stati controllati e multati quando approfittavano di queste cose qua, non avrebbero avuto scampo ad andare avanti. No. Sì, è stato, cioè, chi si vede ne so curute. E poi mi dico, no, non è così, no. Prima la cosa era mezzo franco. Allora, cioè, un euro, e un euro sono di più di 1.000 lire. Cioè, è tutta canta una truffa, cioè, chi doveva controllare i prezzi, chi doveva fare veramente il proprio lavoro, non l'ha fatto. È per quello che se ne sono approfittati, chi se li carrasiati. Comunque oramai è andata, la cosa andò avanti per loro e dietro per noi. Noi la prendiamo sempre nel di dietro, tanto loro vanno sempre avanti a prenderci per il culo, questa gente. Poi per carità, guarda. Io schifo. Quanti fanno? Proprio uno schifo. Purtroppo mentre siamo qua a lamentarci, però poi le cose sono sempre uguali, non è che cambia niente. Io non trovo giusto che abbiano cambiato la lira in euro senza interpellare il cittadino. Per le altre cose le votazioni del fanno, potevano farlo anche per questo, perché il cittadino poi che ci deve piangere, non loro. Allora è messa più faccia di mortadella a punire l'euro. Oh, per carità. Magari manco si vedeva qualche cosa stava facendo. Nessuno si rende conto. Sappiamo solo una cosa noi, che andremo, cioè, andiamo da una parte, andiamo dall'altra, noi la prendiamo sempre in culo, scusando la frase. Vabbè, così è. Lo so. Che cosa vuoi fare? Tanto. Parliamo, ne parliamo, non cambiamo nulla. Perché tanto che comando non siamo sempre io. Chiappa. Ma non credi che si dice, si butta in Italia. È tutto il mercato. Non c'è una cosa che va più bene. Non è come prima. Sia i bar, sia i ristoranti, sia qualsiasi attività, sono tutti a pascolo abusivo. Non c'è più rispetto di niente, non c'è. Cioè, ma che dove cavolo stiamo vivendo? Cambia. Via. Aspetta. Ah, l'altro giorno, quando l'altra notte, sono l'altra notte, no? Mi sono dimenticato il l'altra apparecchio acceso, no? Capisci a me, quella frequenza là, capisci dal volo. Ho sentito gente ruttare, allucinante. No. Essere. Ma sono lì. Cazzo già. L'altra. Ah. Quella sì, allora. Eccola sì, gente ruttare. Ruttare a spandare. Magari qualcuno che c'era fuori che lì con la frequenza li stava svoltette. E non c'era poi ci volevano i tuni. C'è chi ce li ha? C'è già fuori, guarda, di vado via. No. Stavo scherzando. Fanno, non so, le fanno anche le figlie del burro paro burro. Non te lo sto dicendo. Non lo sapevo, si potevano entrare. Sì, sei tu, sì. Ci sono degli appari che ce li hanno. E tu non hai riconoscimento, diciamo, la tua richiamata. Di loro. Vieni. Praticamente te lo registra. Tu dopo di averlo registrato, lui gli rimanda lo stesso tono. E lui... Ti ha spiegato tanto la questione. Non ci riguarda, non mi interessa a me, non mi interessa a lui. No. Un giorno che li ho sentiti ruttare, ecco perché. Cappa. Ecco, senza processare, va bene. Io l'ho sentito sull'internazionale fare i rutti, fare queste cose qua, e quelli mi dicevano, guarda che se ti troviamo lo sai che non è cosa. È una cosa di Stato, se ti trovano ti mettono le manette, lo sai che prima o poi ti prendiamo, e io devo continuare. io lo so, rutti, fischi, musica, portati una musica, lo so. E vabbè. Ma a rischio, già. Poi quando li trovano un casino, nero. Bisogna aspettare su queste cose, perché prima o poi ti cassano. Ultimamente non lo sto più ascoltando. Ma è chiuso l'internazionale, è bloccato. Purtroppo ci sono le persone troppo maleducate, ci sono, che non ci si fa, non ci si comporta così, in qualsiasi frequenza che esso sia, che vuole il massimo rispetto, solo che molta gente rispetto non ne ha, poi più glielo dice più si peggio si fa. No? Fatto, ma c'è una Sorry. e l'ultimo uscito è il 550, a Paola. Questa è la radio che va a Paola, non so se hai conosciuta Paola. No, negativo, non me lo ricordo. Di anni fa comunque, gli anni 92-93. Di quella lì? Non puoi sicuramente se la ricorda, Alessio. Pare che sia morta. Andata a sene quella ragazza. Quanto me l'ho detto, sì. Regalala. Non va bene. Mi piace stare. Ma che una bella modulazione quando è uscita. Tommaso, è l'oro? Sì, avanti. Sempre io. Scappa, risolto. Se non sei uscito. Non sei uscito. Tu sì. Quando esce esce bene, caspita. Niente. Niente di niente. Guarda lì, il microfono a controllare, cazzo. Se... Chi è? Ma lei me ce l'hai. Hola. Se mi stai ascoltando, ti auguro una buona notte. Se ce la risentiamo domani, pure io la può chiudere. Salutoni a tutti. Notte già, brumendo dici. Sì, bravo, bravo. Allora, domanda pure a te. Qua! Anzi! Sono qua! Mi sembra meglio. Come dici, va bene. Chiara, adesso un pochettino di innesco. Ti ci dilatti. Ma batteria c'ha col microfono? I 7 volt. Proprio la Twitter, proprio. Un po' scarica, anche per quello che fischia un po'. Ok, dai, io ti devo salutare perché purtroppo devo chiudere. Ciao, buonanotte. Comunque in qualche maniera ci stai riuscendo a farle. Domani attentati, magari le apri e gli dà una pulita, poi prendono quello spray per contatti da usare, anche quello secco è molto buono. Glielo passi e vorrei che va alla grande. Guarda i fili. E purtroppo quando stanno un po' di tempo fermi succede sempre qualcosa. Sì, allora ti saluto anch'io perché vado a coricarmi. Cappa, cappa. Sì, c'è riuscito una bomba. Bomba. Una bomboletta proprio forte, forte forte la modulazione con l'ultimo passaggio. Ok dai, te la saluto, ce la risentiamo tutte le prossime. Buona la mia modulazione lì. Grazie. Gamba, dai, ciao, buonanotte Gambio. Arrivederci.